Fatto Giorno, le notizie in 60 minuti. Su fisco e lavoro ora sindacati e imprenditori incalzano il governo. Camusso, bisogna pensare ai pensionati. Il Financial Times plaude alle proposte di Renzi, comincia a ribaltare le politiche di austerity, ma dalla BCE arriva l'avviso, nessun progresso in Italia sul rientro del deficit. Pregate per me, è con un tweet che Papa Francesco ringrazia questa mattina tutti nel giorno del primo compleanno del suo pontificato. Aereo scomparso, false speranze dal satellite cinese, ancora nessuna traccia sull'aereo scomparso che potrebbe aver volato 4 ore dopo la sparizione dai radar. E un saluto da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque ad effetto giorno, naturalmente, dai provvedimenti annunciati ieri da uno scoppiettante Matteo Renzi. Non siamo abituati evidentemente allo stile rapido e molto informale del Presidente del Consiglio. In rete impazzano video che lo ritraggono come venditore di pentole, come mastrota. Insomma, al di là dei modi e dei contenuti poi che sarebbe bene occuparsi, e noi di questo in effetti vogliamo fare questa mattina, contenuti su cui peraltro oggi plana il giudizio della Banca Centrale Europea nel bollettino mensile di marzo. Finora, dice la BCE, non sono stati compiuti progressi tangibili per quanto riguarda la raccomandazione della Commissione che invitava l'Italia a intraprendere ulteriori misure di risanamento per assicurare l'osservanza del patto di stabilità e di crescita. Quella che si dice dunque un'altra bacchettata con cui deve fare conto il nostro governo, il nostro spumeggiante Renzi. Ma ripartiamo facendo un punto sulle reazioni e sulle precisazioni di oggi che arrivano sia dal governo sia dalle parti sociali. Poi ne parliamo con Chicco Padula del Sole 24 Ore, che ci ha già raggiunto in studio. Grazie Chicco, davvero. Grazie oggi un Grazie. Giornale particolarmente utile, perché i provvedimenti ieri erano talmente tanti che insomma oggi c'è una mappa anche molto chiara visivamente, con i colori. Sì, assolutamente, abbiamo fatto questa scelta di dividere bene che cosa cambia da subito, che cosa cambierà in futuro e quali sono invece i progetti più a lunga scadenza, e mi sembra sia molto molto efficace. Sì, molto efficace e molto chiaro, ti ringrazio come lettrice proprio di questo. Dicevamo che stamattina sono state molte le reazioni e le precisazioni, allora facciamo il punto con il nostro Vincenzo Miglietta da Roma. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Partiamo allora proprio dalle precisazioni del governo, in primis quelle di Matteo Renzi, dal Presidente del Consiglio. Un avvertimento al Parlamento: mi sono impegnato a mettere entro il 1° maggio 10 miliardi di euro nelle buste paga dei 10 milioni di italiani e lo farò se i tempi slittano. Non esiterò un attimo a farlo davvero, il decreto legge. Renzi rivendica quindi l'intervento sull'IRAP, sul taglio del 10% coperto con l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, e dice: le imprese non le abbiamo trascurate. Bene le prime misure sul fisco, ma si può fare anche di più, fa capire da Confindustria il presidente della piccola industria Alberto Baban. Sentiamo. Sentiamo che ci sia un'attenzione particolare al sistema impresa, alle imprese. Siamo convinti che è l'impresa che crea lavoro, quindi riuscire ad agevolare l'impresa è l'unico sistema per ricreare lavoro. E così gli industriali. Bene Renzi sul fisco, perplessità sui contratti, commenta dal sindacato Susanna Camusso. Più attenzione ai pensionati è quello che chiede al governo non solo la CGIL ma anche Bonanni CISL. Abbiamo fatto un'operazione che faciliterà le assunzioni, commenta da Palazzo Chigi il ministro del lavoro Poletti. Il sottosegretario Del Rio annuncia infine taglia la spesa pubblica da 32 miliardi in 3 anni. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Bene i soldi e i redditi più bassi, poi però si pensi anche alle imprese, così parla al microfono di Giovanni Minoli Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera. C'è una decisione importante di Renzi che condivido, ed è quella di concentrare le risorse che lascia in eredità Letta tutte l'abbassamento dell'IRPEF. Si Quindi può una dire, scelta politica, con una battuta, soldi che c'erano usati in un modo chiaro politicamente. I soldi che c'erano lasciati nell'ultimo bilancio approvato da Letta vengono concentrati sui redditi più bassi. Con una battuta, se mi consente, certo, direi questo: con i soldi lasciati da Letta nell'ultimo bilancio approvato a fine anno si abbassa l'IRPEF e si dà un contributo ai redditi più bassi. Io mi auguro che con i soldi che poi recupererà Renzi con le manovre che farà si possano dare dei segnali molto chiari anche alle imprese sull'IRAP. Se si fanno queste due cose nei prossimi 3 mesi, l'Italia davvero avrà uno shock importante. Questo dunque Francesco Boccia, microfoni di Giovanni Minoli, e noi torniamo in studio con Chicco Padula. Allora, dicevamo che davvero diventa complicata questa chiacchierata stamattina, perché sono talmente tanti i provvedimenti annunciati ieri che diventa complicato gestire questa conversazione. Però partiamo dalle criticità, così almeno scegliamo una strada. Voi avete titolato stamattina: tanti annunci non fanno una scossa. Perché appunto le criticità sono almeno 3 o 4. Cominciamo dai tempi intanto. Sì, direi che la principale criticità è il fatto che in realtà ancora di cose concrete, cioè di testi, di norme, di regole, diciamo, non ne abbiamo viste. Abbiamo visto ieri in conferenza stampa con Renzi tante belle slides interessanti che contengono sicuramente tanti spunti utili, necessari, che forse in passato non si è avuto il coraggio di fare. Lo sai che le ha copiate da Obama, l'abbiamo beccato. Sì. l'ho letto, molto divertente, sì. Per cui, ci sono 3 grossi filoni di interventi, alcune cose che dovrebbero entrare in vigore subito perché sono contenute in decreti legge di cui però ancora non abbiamo visto il testo, almeno non quello definitivo, che sono le misure che contengono alcune correzioni alla legge Fornero immediate, che entrerebbero in vigore subito. Per esempio, molto importante, quella che cambia ancora la disciplina dei contratti a termine, le collaborazioni di Cocopro, insomma, e consente alle aziende di assumere senza causale per 36 mesi. E di questo parleremo fra un attimo con la CGIL, sì. Esattamente. Poi ci sono poi qui dentro anche alcune misure che riguardano la casa, per rilanciare insomma l'edilizia popolare, il piano affitti, c'è di nuovo uno sconto sulla cedolare secca sugli affitti per chi sceglie di affittare la propria casa con il canone convenzionato. Poi ci sono alcune proposte che sono contenute in disegni di legge, quindi che dovranno affrontare un iter parlamentare, certo, eccetera. Direi a partire dalla riforma più ampia della legge Fornero sul lavoro, fino alla riforma costituzionale del Senato e del titolo quinto della Costituzione. Quindi questi provvedimenti avranno ovviamente tempi più lunghi. Poi c'è un terzo filone di provvedimenti, molto importante, però ancora neppure scritti né come decreto né come disegno di legge, che sono sostanzialmente il taglio famosissimo dell'IRPEF per questi 10 miliardi, che consentirà sconti significativi, direi, perché 80-100 euro per chi ne guadagna in media 1.300-1.400 non è una cifra irrilevante. Devo assolutamente dire che in passato non si è mai riusciti, bisogna essere onesti, a fare una cosa del genere, e vedremo come Renzi lo però farà. Di fatto sono ancora parole, insomma. Però di fatto sono parole. E poi lì dentro c'è anche un piccolo intervento, più piccolo, per le imprese, perché è previsto un taglio dell'IRAP di circa 2 miliardi e 5, 2 miliardi e 6, contemporaneamente però aumenteranno le rendite finanziarie, sempre la data clou dovrebbe essere questo 1° maggio che Renzi ha più volte citato, però ripeto, in questo caso noi non sappiamo ancora. Ovviamente, poi ripeto, un conto è dire queste cose in una conferenza. C'è proprio un problema di copertura, cioè non si sa se si riuscirà effetti. Ma voglio dire, io penso che si riuscirà, perché se l'ha detto in conferenza stampa, nessuno vuole dubitare. Per carità. Però certamente tu hai citato le coperture, quelle delle coperture è senz'altro uno dei problemi che nei prossimi giorni il governo dovrà affrontare con maggior attenzione, e vedendo i numeri concreti. Ecco. Quindi problemi di tempo, problemi di testi che al momento non ci sono, problemi di coperture, ne aggiungerei uno politico, problemi con Padoan. Secondo te Renzi ne avrà nei prossimi giorni? Perché quando poi dalle parole bisognerà passare ai fatti, Chicco? Ma io voglio augurarmi di no, nel senso che mi sembra che l'operazione presentata ieri sia stata ben orchestrata tra il Presidente del Consiglio e il nuovo ministro dell'economia. Renzi ha indicato da dove arriveranno le coperture, secondo me ha condiviso questa riflessione giustamente con Padoan, però bisognerà vedere, già oggi insomma avremo i primi riscontri di come l'Unione Europea poi accoglierà insomma queste proposte di copertura. Ad esempio, siccome una parte insomma consistente, 3-4 miliardi, arriverà dalla spending review, e sappiamo che Bruxelles è sempre abbastanza scettica quando noi portiamo a copertura di spese i risparmi della spending review, che purtroppo fino a quando non vengono realizzati sono sempre ipotetici. Oppure un'altra cosa molto importante, bisogna vedere se qualcuno comprerà le macchine insomma messi all'asta. Da lì insomma non so se arriverà tantissimo, però poi c'è quest'altra cosa forse ancora più importante: 6 miliardi dovrebbero arrivare da questo margine di flessibilità sul deficit italiano, che insomma l'Unione Europea non è proprio così convinta che noi possiamo avere. Però insomma adesso come sempre noi diciamo si può fare di più, si può fare meglio eccetera, insomma mi sembra che alcune cose siano state fatte, bisogna avere la pazienza di leggerle. Personalmente penso che insomma la scelta di spingere molto sul, c'è stato questo dibattito, questo derby nei giorni scorsi, si è parlato molto meglio l'IRPEF, meglio l'IRA per le imprese. Secondo me qui il governo poteva forse avere un po' più di coraggio, perché insomma il fronte imprese è veramente in sofferenza, non che i lavoratori non lo siano, per carità, però forse qualcosa di più qui si poteva fare, no? Però come dicevi poc'anzi proprio tu, insomma questo tentativo di rendere i contratti flessibili più facilmente anche utilizzabili vuole essere un modo per avvicinarsi e per aiutare comunque il mondo dell'impresa. Io su questo sentirei anche la nostra ospite Elena Lattuada, segretario confederale CGIL, responsabile contratti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, i sindacati, devo dire, hanno accolto con una certa, insomma, in maniera positiva gli interventi proposti ieri da Renzi. C'è però questa questione dei contratti, della durata massima del contratto a termine, che passa a 3 anni senza dover indicare la causale, che insomma rischia un po' l'attuata di rendere questo mondo del precariato ancora più precario, perché c'è questo rischio. Assolutamente sì, tant'è che su questo noi ci siamo riservati, e vi ascoltavo in diretta nei minuti precedenti sul fatto che c'è la necessità di fare ovviamente una valutazione sull'insieme delle misure. Sicuramente il provvedimento di allungamento senza causale dei contratti a termine rappresenta un problema. Noi abbiamo detto anche in queste ore che un conto è parlare di un'unica forma possibile di assunzione, quindi cancellando le tante forme di flessibilità, e ragionare quindi su quale può essere un unico strumento e di conseguenza quali sono gli elementi di tutela e di precarietà connessi. Altro conto è fare un'operazione di aggiunta o di allargamento delle maglie sul contratto a termine, lasciando assolutamente invariate tutte le altre forme. Ecco, cosa proponete voi per correggere questa indicazione? Ma noi, come dire, sui contratti a termine da tempo sosteniamo che un conto è ragionare dentro i contratti piuttosto che per la singola impresa di quali sono le necessità e ragionare lì, altro conto è estendere ed allargare. Sicuramente, ripeto, ci può essere una discussione legata all'incremento se però contestualmente spariscono le altre forme, le tante forme di precarietà esistente, cioè parliamo di contratto a termine, parliamo di tempi del contratto a termine, quella è la forma flessibile di utilizzo che in fondo era un po' alla radice quando si parlava del contratto unico a tutte le professive. Aggiungere in continuazione, come dire, forme di flessibilità, diciamo che si è visto che non ha aumentato di per sé l'occupazione. La Tuada, è stata secondo voi un po' un'azione di compensazione nei confronti delle aziende per quel taglio dell'IRAP forse non sufficiente, invece l'intervento sull'IRPEF? Ma io penso che anche le dichiarazioni fatte dal Ministro del Lavoro in queste ore, ho avuto modo di vederne qualcuna, cioè il problema vero sul mercato del lavoro è capire che cosa si fa sia sul versante della domanda sia sul versante dell'offerta. Del resto anche la manovra sull'IRAP, che capisco le imprese considerino poco diciamo non sufficiente, ha comunque il beneficio da questo punto di vista di non fare un'operazione a pioggia, ma di provare a centrarla sulle imprese che hanno diciamo un'occupazione maggiore o che lavorano per maggiore occupazione. Insomma, secondo lei questo, quello di Renzi voleva essere un regalo alle imprese per... Se si aggiunge basta, direi di sì. Se invece si fa un ragionamento sull'insieme del mercato del lavoro, io penso che possiamo trovare la soddisfazione da entrambe le parti. Grazie Elena Lattuada, segretario confederale della CGIL. E invece, lo dicevamo in apertura, insomma, davvero un modo di presentare i suoi provvedimenti, quello di ieri di Matteo Renzi, un po' irrituale, se vogliamo usare un eufemismo, e molti hanno storto il naso, ma fra questi non c'è il nostro Gianluca Nicoletti. Renzi ha fatto un'operazione dal suo punto di vista molto furba, ha veramente, realmente, come dicono oggi tutti i notisti accigliati e irritati, usato delle tecniche di televendita. Sembrava un venditore di gioielli, di pentole, di qualunque altro oggetto che comunemente viene venduto in televisione. Io non ci vedo nulla di scandaloso. Se il venditore di pentole porta fatturato, va benissimo al suo sistema di vendita. È che c'è una classe di osservatori della politica, sono quelli che hanno dato il segno generale del punto del sentire nazionale rispetto alla classe politica, si trova profondamente spiazzata. Perché? Perché ha rotto le liturgie. Siamo tutti fuori da una liturgia tradizionale. Ora, bisognerebbe aspettare di vedere i risultati di Renzi. Se Renzi, chiamato oggi pentolaio, imbonitore, quello volete, porta a casa il risultato, va benissimo il metodo, va benissimo il sistema. Non è che gli italiani abbiano un livello di sensibilità, di percezione, di raffinatezza culturale molto diversa da chi vende, acquista pentole, acquista filtri amorosi, acquista pozioni magiche, acquista croste presunte d'autore. Ed ora le informazioni per chi è in viaggio, poi torneremo insieme e continueremo a parlare di Papa Bergoglio ad un anno dal pontificato. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Su fisco e lavoro, ora sindacati e imprenditori incalzano il governo. Camusso, bisogna pensare ai pensionati. Il Financial Times plaude alle proposte di Renzi, comincia a ribaltare le politiche di austerity, ma dalla BCE l'avviso, nessun progresso in Italia sul rientro del deficit. Arrestato per corruzione l'ex vice sindaco di Pavia, Ettore Filippi, avrebbe permesso ad amici imprenditori di sanare costruzioni irregolari in cambio di denaro. Filippi, un tempo poliziotto, aveva arrestato il numero uno delle BR, Mario Moretti. Un anno fa il mondo intero conosceva padre Bergoglio, una persona austera e molto franca. Oggi da Papa, come ieri, fra le strade delle favelas brasiliane, racconta a Radio 24 il suo amico padre Pepe. Fratelli e sorelle, buonasera. E chi non se le ricorda queste parole che ovviamente anche Radio 24 vi fece ascoltare in diretta? Davvero fu un momento molto emozionante, e oggi insomma è passato un anno da quel giorno. Pregate per me, così questa mattina Papa Bergoglio in un tweet, come ormai ci ha abituato. Un anno fa, dicevamo, il 13 marzo 2013 veniva eletto Papa l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Nel viaggio che Radio 24 sta dedicando ai cambiamenti della Chiesa in questo primo anno di pontificato, ascoltiamo oggi le parole di un grande amico di Bergoglio, José María Di Paola, e per tutti padre Pepe. Vive e opera nelle Villas Miserias, le favelas argentine. Padre Pepe è l'esempio di questa Chiesa voluta da Francesco, che esce da se stessa e va nelle periferie. Lo ha intervistato Katia Caramelli. Era una persona molto spirituale, con molte convinzioni molto forti, e oggi lo vediamo nel suo pontificato. Mi risulta logico quello che fa ora, perché lo faceva in Buenos Aires. Era molto austero, aveva un dialogo molto franco, semplice con i sacerdoti, con la gente che incontrava. Preferiva visitare i poveri, luoghi frequentati dalla gente, popolari come i santuari e i luoghi di pellegrinaggio. Quello che sta facendo oggi da Papa ha molto a che vedere con quello che lui è. negli anni che andavano dal 96 al 2001 era una delle poche persone importanti che andava a visitare le Villas. In esa epoca, negli anni dal 1996 al 2001, in questa epoca non c'era la coscienza sociale che poi ha attraversato l'Argentina. In questa epoca il cardinale Bergoglio era l'unica persona importante, potremmo dire, che visitava le Villas, si fermava, beveva mate, appoggiava i nostri progetti con giovani, infanzia, vecchi. La gente della Villas lo vedeva come uno di loro e per questo quando fu eletto festeggiava come se l'Argentina avesse vinto il campionato del mondo. Sentivano che qualcuno della Villas guidava la Chiesa del mondo. Alguien de la Villa era el que conducía la Iglesia nel mondo. Rientriamo in Italia con la cronaca e con una brutta storia, purtroppo un'altra brutta storia di politica corrotta, questa volta a Pavia. Ettore Filippi ha 71 anni, è stato sindaco di Pavia, ma prima, negli anni 80, è stato il poliziotto che arrestò il numero uno delle Brigate Rosse, Mario Moretti. Questa mattina sono stati disposti per lui gli arresti domiciliari. Secondo quanto si è appreso, Filippi, grazie al suo ruolo di sindaco, avrebbe permesso ad amici imprenditori di sanare costruzioni irregolari, ottenendo anche concessioni edilizie per utilità pubblica, quindi con l'abbattimento di gran parte degli oneri costruttivi. In cambio di questi favori, secondo le indagini di Carabinieri e Guardia di Finanza, avrebbe ricevuto soldi che sarebbero stati versati su conti di alcuni comitati elettorali a lui relativi e a una società che si occupava di pubblicità ed eventi. Agli arresti domiciliari anche l'imprenditore Ciro Manna. L'accusa è corruzione e l'ultimo atto dell'indagine Punta Est, che nel 2012 aveva portato al sequestro di un cantiere di 9.000 metri quadrati del valore di circa 3 milioni di euro e all'emissione di misure cautelari e interdittive nei confronti di un professore dell'Università di Pavia, un imprenditore pavese e un dirigente del settore ambiente e territorio, sempre del comune di Pavia. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Indagato l'ex assessore regionale lombardo alla sanità in quota Lega Nord Luciano Bresciani nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto nel marzo 2013 dell'ex consigliere regionale Massimo Gianluca Guarischi e che vede l'ex governatore Formigoni accusato di corruzione e turbativa d'asta. Sono sereno e tranquillo perché le nostre delibere erano solo atti di indirizzo politici e generici, mentre degli atti esecutivi si occupavano i direttori generali, questo il commento di Bresciani. Ed ora vado ligure. La preoccupazione dei lavoratori dopo lo stop alla Tirreno Power. Il vertice è stato chiesto dai sindacati nelle ore immediatamente successive al sequestro degli impianti a gas della centrale di Vado Ligure scattato martedì. All'incontro in prefettura partecipano i segretari delle organizzazioni di categoria, i rappresentanti delle istituzioni locali e quelli di Tirreno Power. C'è preoccupazione sul futuro occupazionale di almeno 700 persone tra dipendenti diretti, subappalti e indotto in una zona dove la crisi negli anni ha inciso pesantemente sul tessuto produttivo ed economico. Da parte dell'azienda è stata ribadita l'intenzione di proseguire l'attività nel rispetto delle leggi e contemporaneamente si studiano le 45 pagine del decreto di sequestro preventivo per un eventuale ricorso al Tribunale del Riesame. Nel provvedimento il giudice Fiorenza Giorgi ha elencato una serie di inadempienze da parte di Tirreno Power rispetto alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione integrata ambientale sul controllo e l'abbattimento delle emissioni nocive che, secondo la Procura, sarebbero state la causa di 442 decessi tra il 2000 e il 2007. Ma nel decreto di sequestro il giudice ha indicato anche quale strada Tirreno Power dovrebbe seguire per poter riattivare i gruppi a gas, e cioè l'adozione di tecniche e strumenti attraverso i quali calibrare la produzione e garantire un monitoraggio quotidiano delle emissioni. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Sono salite a 6 le vittime del crollo dei palazzi ad Harlem, a New York, oltre 60 i feriti. Le ricerche continuano, anche se il giorno dopo e dopo un crollo di tali dimensioni è difficile immaginare che qualcuno possa essersi salvato. Le esplosioni sono state 5, la causa una fuga di metano dalle condutture. Gli uomini del pronto intervento non hanno fatto in tempo ad arrivare, i loro mezzi sono giunti sul posto quando ormai i due edifici non c'erano più, solo macerie e fiamme. Eppure siamo a Park Avenue, ma un tratto molto diverso da quello che taglia l'Upper East Side. Qui siamo nella Harlem più a nord, molti neri e molti ispanici, le rotaie della sopraelevata a un passo dai palazzi. Il sindaco De Blasio dice che forse uno dei due edifici degli anni 20 non aveva nemmeno l'abitabilità. È una tragedia enorme, dice il primo cittadino, perché non abbiamo avuto indicazioni in tempo utile per salvare le persone. Però qualcuno dice che l'odore di gas si sentiva da giorni. Ora si conteranno le vittime, morti e feriti, poi forse si dovranno contare anche le crepe nelle pareti dei palazzi, le linee elettriche cadenti, le tubature fatiscenti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Nessun resto del volo della Malaysia Airlines sparito sabato scorso con 239 persone a bordo. Nulla è stato ritrovato nell'area del Mar Cinese Meridionale, dove un satellite cinese aveva indicato la presenza di tre grandi oggetti galleggianti. Lo ha fatto sapere il capo dell'aviazione civile di Kuala Lumpur dopo che la Malaysia questa mattina aveva inviato un aereo nella zona perché appunto si erano segnalati dei rottami degli oggetti. Una vicenda questa che davvero sta assumendo contorni sempre più inquietanti e quindi è su questo che noi vogliamo contattare oggi il comandante Italo Oddone, che è un pilota, air manager di Air Dolomiti e presidente dell'Italian Flight Safety Committee. Buongiorno Oddone. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 5 giorni che non si sa nulla di questo aereo, un aereo grande, un aereo con 239 persone a bordo. Insomma, la domanda che le faccio è come sia possibile. Ci sono ad esempio dei precedenti di questo genere? Non sono moltissimi, ma so che qualcuno c'è. Sì, normalmente se ne viene a capo, nel senso che prima o poi si trova qualche cosa. Adesso l'area è molto ampia, in mare, è difficile magari riuscire a pattugliare correttamente tutta la zona, ma per quanto ne ho ricordo prima o poi qualche traccia ne viene fuori. Perché quali possono essere le ipotesi in questo caso? Si era parlato di terrorismo, ma in realtà insomma questa ipotesi è tramontata, perché le due persone che si erano imbarcate con passaporti falsi, tra cui uno italiano peraltro, si è capito poi che erano banalmente delle persone che volevano raggiungere l'Occidente e non riuscivano a farlo in altro modo. Quindi a questo punto quali potrebbero essere le ipotesi che restano in campo? Ma ipotesi è difficile farle senza aver nessun dato. Mi viene in mente nel passato un aeroplano, un caso di un Boeing 747 da TVA che a lungo tempo si parlò di terrorismo, poi invece era un'esplosione di vapori dentro un serbatoio vuoto che hanno creato il problema. Ci sono voluti, mi pare, 3-4 anni per venirne a capo. Però, queste sue parole non sono affatto rassicuranti, ma c'è modo per un Boeing di spegnere qualsiasi comunicazione con l'esterno, sparire così nel nulla? Bisogna vedere i tracciati radar anche della difesa, probabilmente qualche indicazione può esserci lì. Ci sono dei sistemi di trasmissione, ad esempio, di trasmissione dati fra gli aerei e terra. Ma evidentemente non c'è niente di tutto ciò, perché altrimenti immagino bene che avrebbero già fatto delle verifiche. C'è un atto umano che il pilota o il copilota, insomma chi è nella cabina di pilotaggio, può compiere per eclissarsi completamente? Se noi pensiamo anche all'ultimo dirottamento che c'è stato su Zurigo non più di meno di un mese fa, è stato un pilota che si è segregato nel cockpit e ha dirottato l'aereo. In tal senso una possibilità può esserci, però ripeto, senza avere dei dati, finché non si trova la scatola nera e non si trova il copy voice recorder, sarà difficile, questo o comunque senz'altro. Almeno dei resti, sarà difficile stabilire una causa precisa. Mentre in cui si trovano questi particolari... Ma come diceva lei, potrebbero passare anni, quindi stavamo facendo, come dire, delle ipotesi di scuola, no? Perché insomma volevamo anche in qualche modo essere rassicurati, come dire. Invece in realtà può capitare se il pilota e il copilota in qualche modo lo decidono per qualche astrusa ragione. Sì, ma ne rimane una traccia, cioè se prima o poi si si vede. Nel momento in cui si trova il fatta le cose, il corpo deve essere corda, e dopo è tutto chiaro. Ma anche solo dai resti è chiaro se c'è stato un impatto, se c'è stato un impatto con un aereo integro, se l'aeroplano ha avuto dei problemi prima. Quindi io penso che nel momento in cui si comincia a provare qualcosa, avremo la strada aperta per trovare la soluzione. Grazie al comandante Italo Done, del presidente dell'Italian Flight Safety Committee. E noi restiamo agli esteri, perché a 4 giorni dal referendum sull'annessione della Crimea alla Federazione Russa, il comitato elettorale ha annunciato che il quesito referendario sarà in russo e ha precisato che la consultazione sarà monitorata da osservatori internazionali, anche dall'Italia. Intanto, mentre un deputato di Mosca ammette la presenza di forze militari russe in Crimea, negata finora dal Cremlino, la minoranza musulmana minaccia, se vinceranno i sì, potrebbe esserci una nuova Cecenia. E noi rientriamo in Italia con la cronaca. Sequestrati beni per 420 milioni di euro appartenenti ad esponenti di note cosche di Reggio Calabria. Il tenente della Guardia di Finanza Domenico Napolitano al microfono di Valentina Furlanetto. L'operazione odierna in realtà nasce dall'operazione Metropolis, che nel 5 marzo 2013 aveva consentito di disarticolare, con l'arresto di 20 soggetti, le due potenti cosche di 'Ndrangheta, di Morabito e di Iaquino, i quali attraverso un'articolata complessa rete di società italiane ed estere erano riusciti a garantirsi la gestione, il controllo e la realizzazione di importanti e noti complessi immobiliari turistico-residenziali. I reati contestati erano stati trasferimento fraudolento di valori, intestazioni fittizie in pratica, e associazione di stampo mafioso e reimpiego di capitali illeciti. Quindi, a seguito di questa operazione, la DDA di Reggio Calabria ha delegato accertamenti patrimoniali volti alla reale ricostruzione del patrimonio riconducibile a questi soggetti affiliati, ovvero proprio partecipi a queste due cosche di 'Ndrangheta. 'Ndrangheta in Calabria, ma non solo, ed ora a raccontarlo anche una fiction TV. Una cittadina dal nome immaginario di Trebbiate in un realistico hinterland milanese. Una famiglia altrettanto immaginaria e in Marruso, personaggi di spicco della malavita. Le loro vicende sono lo spunto di Le mani dentro la città, fiction di Canale 5 al debutto venerdì. Per la prima volta si racconta la 'Ndrangheta in Lombardia. Un passaggio importante, spiega lo sceneggiatore Claudio Fava. Importante perché è una realtà che è stata accarezzata ma mai affrontata, e per la prima volta una storia, una grande saga criminale ambientata in una grande operosa città come Milano, che è un po' quello che la 'Ndrangheta ha deciso di fare ben prima che noi immaginassimo di costruire questa serie. I criminali? Una famiglia dalle radici calabresi sì, ma dai frutti lombardi. Sono lombardi i loro interlocutori, i loro punti di riferimento. L'operazione Infinito qualche anno fa ci ha raccontato una 'Ndrangheta ormai di seconda o terza generazione che sceglieva in modo selettivo i propri punti di riferimento. Serve il tipo di subalternità che si può costruire, non il fatto che quella persona sia o meno nata in Calabria. Arrivano intanto le prime polemiche. Sempre critico con Berlusconi, perché Fava ha scritto una fiction per Mediaset? Ma perché io credo nel senso di autonomia, di libertà, di professionalità di chi fa questo mestiere. Chi fa questo mestiere lavorando a Mediaset o alla Mondadori o a Medusa non lo fa per spirito servile, lo fa cercando di costruire il proprio lavoro col massimo di autonomia e di professionalità. Marta Cagnola, Radio 24, il Sole 24 Ore. E prosegue Passione Sud, il viaggio che Radio 24 ha deciso di fare nelle zone d'Italia che ancor più del resto del paese stanno soffrendo per la crisi. Anche oggi siamo a Napoli. Un anno dopo punta ancora verso uno scheletro di ferri arrugginiti e mare sullo sfondo il cartello della biglietteria della città della scienza. Un anno dopo, quando le inchieste ancora non hanno identificato la mano che bruciò quel polo di eccellenza nel Golfo di Bagnoli, l'accordo per la ricostruzione alla fine è stato trovato, anche se in ritardo e anche se la firma che lega la rinascita del museo alla bonifica dell'ex Italsider slitta di nuovo. E speriamo che questa sia la volta buona, commenta Vincenzo Lipardi, consigliere delegato di Città della Scienza. conoscenza. Da un lato fa ricostruire un simbolo della cultura e dell'innovazione italiana, dall'altro interviene su uno dei 34 siti di interesse nazionale inquinati e anche uno degli incubatori di impresa più importanti d'Europa, una piccola Silicon Valley. Respinge come infamanti le voci insistenti di una pista interna dietro quelle fiamme, divenute altro simbolo negativo di una città che distrugge quanto funziona, bruciando il più importante museo della tecnica italiano e l'unico polo attivo di un'area ferma da 20 anni. L'unica parte del mondo in cui bruci un museo della scienza e ti dicono vai da un'altra parte. La presenza della città della scienza dà fastidio perché dimostra che a Napoli in particolare si può fare, che si può creare sviluppo. Se dopo 20 anni non si è fatto nulla tranne città della scienza e un ente non profit venga colpito in questo modo, e sconvolge. Scienza e tecnica sono a Napoli però anche sinonimo dello sforzo di offrire una città sempre più smart, soprattutto ai turisti, con i progetti su centro storico, mezzi pubblici e musei affidati all'università. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E vi ricordo che oggi e domani Focus Economia andrà in diretta proprio da Napoli. Domani in diretta da Napoli anche tutti convocati con Carlo Gente e Pierluigi Pardo. Per tutti i dettagli vi invito ad andare sul nostro sito radio24.it. Ed ora ci fermiamo per qualche istante. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed ora è il momento delle notizie dall'altra sponda dell'Atlantico, America 24 con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We have been very firm in saying that we will stand with Ukraine. Barack Obama, lo avete sentito, un momento direi importante, storico, quello di ieri nell'ufficio Oval della Casa Bianca, perché nel mezzo di una crisi che non sembra avere delle apparenti soluzioni e per ora c'è solo una certezza, cioè un referendum convocato in Crimea domenica, che dovrà sancire il passaggio della Crimea alla Russia. Ecco, è in questa atmosfera che il presidente degli Stati Uniti ha accolto ieri Arseniy Yatsenyuk, che è il primo ministro ucraino, un giovane di 39 anni, alla stessa età del nostro presidente del Consiglio. Obama è stato molto deciso, ha minacciato nuove sanzioni contro la Russia se Mosca deciderà di annettere la Crimea dopo il referendum fissato per domenica. Ha definito, come aveva definito nei giorni scorsi, l'intera operazione illegale dal punto di vista giuridico internazionale. Ha ricordato che il mondo intero, certamente il G7, è schierato dalla parte della legalità. Ha promesso aiuti immediati da parte del Congresso americano per $1 miliardo al governo di Kiev, aiuti ormai decisi di fatto, il voto sarà soltanto una formalità, è stato approvato al Senato, dovrà essere passato alla Camera, e soprattutto il presidente americano ha chiesto a Vladimir Putin di seguire il percorso della legalità. Ecco, è attorno a quest'ultimo invito che secondo me si sta cercando di costruire una soluzione diplomatica a una crisi che non vuole nessuno, non la vuole certamente l'America. Possiamo immaginare che decida Barack Obama di inviare delle truppe al fronte ucraino per difendere la Crimea dalla Russia, non la vuole la Germania, che deve convivere con il vicino russo, e soprattutto l'Europa, che riceve dalla Russia grandi quantità di energia, non la vuole la Russia certamente, perché abbiamo visto cosa è successo a Mosca non appena si è diffusa la notizia di una possibile escalation, è crollata la borsa, si sono persi $53 miliardi sul mercato, il rublo si è indebolito, la banca centrale russa ha dovuto intervenire, lo stesso Putin aveva incoraggiato gli oligarchi a riportare i soldi a Mosca per evitare che ci fossero dei congelamenti. Insomma, nessuno vuole un'escalation di questa crisi, tantomeno credo l'Ucraina. Ma sentiamo cosa ha detto Arseniy Yatsenyuk, perché anche la sua dichiarazione ci dà una chiave di lettura interessante. So we urge Russia to stick to its international commitments and obligations and to stop this unacceptable military intervention. Non ci arrenderemo, ha detto, e quello che ci preoccupa di più è che se la Russia prenderà la Crimea, che non deve prendere perché non deve violare la nostra integrità territoriale, e poi il rischio è che continui ad avanzare e a prendersi altre parti del nostro territorio, e questo sarebbe un fatto ancora più grave. Ecco, il rischio è dunque quello. La paura è che Vladimir Putin così ci prenda gusto, decida di continuare ad avanzare. Io non credo che questo succeda, francamente, e credo che sia l'altra dichiarazione di Yatsenyuk che invece dovremmo ascoltare con maggiore attenzione, perché subito dopo l'incontro alla Casa Bianca col presidente Barack Obama e poi di nuovo all'Atlantic Council, il primo ministro ucraino ha detto che intende lavorare con la Russia, che vuole mantenere rapporti amichevoli con la Russia, che l'uso della forza sarebbe comunque sbagliato da ambo le parti. Ecco, questi due messaggi in sintonia, quello del presidente americano e quello del primo ministro ucraino, direi portano in un piatto d'argento una possibilità di soluzione, di via d'uscita anche per Mosca. Qual è la possibilità di soluzione? Beh, quella di trovare una foglia di fico, quella di trovare un compromesso, quella di trovare una via di uscita che salvi le apparenze. E dunque, se l'Ucraina e la Russia riusciranno a mettersi d'accordo, e questo in sostanza che ha detto ieri Barack Obama, se la Russia e l'Ucraina si metteranno d'accordo al di là di quello che sarà l'esito del referendum, a noi andrà bene tutto, andrà bene qualunque cosa, come dire, basta che questa crisi si risolva. Is there a sinking feeling inside the White House? Probably. Job approval for President Obama hits a new low in a new Wall Street Journal NBC poll. Un sondaggio condotto dal Wall Street Journal e dalla rete NBC ha rivelato che l'indice di gradimento di Barack Obama è precipitato dal 43%, che già era molto basso, al 41%, che è il minimo storico per la sua presidenza, è certamente uno dei minimi storici in assoluto per tutti i presidenti americani. Il 54% degli interpellati è contro Barack Obama, di nuovo un livello record. Cosa sta succedendo a Barack Obama? Beh, è da tempo in difficoltà, conosciamo alcune delle ragioni di questo suo momento difficile, in parte per un'economia che, se dal punto di vista della statistica sembra andare bene, quando poi si tratta di tradurre questi dati, questi risultati in benessere sociale o benessere della vita del giorno per giorno, beh, il passaggio non è così rapido, quindi did not sink in, ancora non è penetrato, secondo me, a livello popolare il fatto che le cose stanno andando meglio. C'è stata la riforma sanitaria che non è piaciuta agli americani, che è partita male, quindi due elementi di politica interna importanti, soprattutto guardando alle elezioni di novembre. Ci sarà una battaglia durissima, i repubblicani sono decisi a riconquistare il Senato. Ma un'altra ragione è certamente una ragione di politica estera, cioè Barack Obama sembra impotente davanti all'attivismo di Vladimir Putin. E c'è una risposta? Secretary Kerry is in communications with the Russian government and has offered to try to explore with his counterpart Foreign Minister Lavrov. Ecco la risposta, di nuovo una conferma a quel che vi dicevo prima: dietro la retorica aggressiva c'è la disperata volontà, la disperata necessità di trovare una soluzione politica e diplomatica, di dare una parvenza di legalità a quello che è l'inevitabile, cioè il passaggio della Crimea alla Russia. Non sappiamo ancora quale sarà la forma, ma di nuovo Barack Obama ha indicato un percorso, una strada, ha annunciato che domani a Londra si sarebbero incontrati il segretario di Stato John Kerry e il ministro degli esteri russo Lavrov. L'obiettivo, ha detto Obama, è di poter aiutare come Stati Uniti d'America a cercare una soluzione di compromesso. Credo, spero, dovrei dire, che possa essere a portata di mano da qui ai prossimi 10-15 giorni. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in redazione Laura Faggin. Ci ritroviamo fra pochissimo con il GR.